Il laboratorio di salute popolare trova casa all'interno degli spazi di Labà. Io in particolare, essendo anche il coordinatore sanitario del Mediterraneo, ho trovato il modo, diciamo, di coniugare le due cose, in quanto in questo momento sia come volontari attivisti del laboratorio, sia con tutti i volontari del Mediterraneo, non potendo fare altro che inventarci un modo, diciamo, telematico di attivarsi, oltre a lavoro che già facciamo tutti i giorni all'interno di ospedali e case di cura, ci è venuto in mente questa cosa qua, che sostanzialmente è un pronto soccorso medico-psicologico dove dare informazioni, offrire supporto sostanzialmente a chi in questo momento è privo di reti sociali, oppure gli anziani a casa da soli, ma anche pensando un po' a tutti i migranti che, disorientati, non capendo bene cosa sta succedendo in quanto hanno delle difficoltà linguistiche, e ci sembrava la cosa, come dire, più immediata da fare e da attuare. Non è una roba nuova, nel senso che, per onor di cronaca, nei giorni scorsi abbiamo visto molte associazioni di volontariato che operano nel settore delle patologie mentali attivare servizi simili a questo. A noi è venuto in mente come dire, di copiarlo sfruttando la grande visibilità di cui godiamo, di cui soprattutto la piattaforma di Mediterranea, ecco. Ovviamente in questi casi ci sono anche i numeri verdi delle istituzioni, però molte persone lamentano il fatto che sia quasi impossibile riuscire a mettersi in contatto, quindi insomma voi fornite informazioni anche per sopperire a queste difficoltà? Esattamente, guarda, proprio per questo nasce questa idea, nasce anche soprattutto per andare incontro a molti operatori stessi della che, pur avendo trovato libero il numero verde, non trovano risposte alle loro domande. Cioè, ad esempio, se dovesse esserci un sospetto caso all'interno di un CAS, come si opera? Cioè, questa è una domanda che ci veniva posta qualche ora fa al telefono, appunto, che abbiamo attivato. In generale sì, è per dare un po', per mettere a servizio la nostra professionalità, ma anche un po' per provare ad alleggerire, a dare una risposta a tutte quelle situazioni diciamo un po' grigie, che oggi non troverebbero risposta chiamando appunto ai numeri istituzionali. C'è anche appunto la questione del supporto psicologico, che immagino in questi giorni, in queste ore di restrizioni totali, di isolamento forzato, sia necessario. Sì, è estremamente necessario, e qui entra in gioco un nostro partner con il quale collaboriamo già da qualche mese all'interno del laboratorio, che sono i volontari dell'associazione Approdi, che lavorano da anni nel mondo dell'accoglienza nella nostra città, qua a Bologna. Soprattutto per i lavoratori, spesso stranieri, diventa poi una questione anche, diciamo, molto, molto toccante, in quanto ti senti dire su 20 punti del nuovo vademecum uscito, quello del ministero, di restare a casa, 19 ti dicono perché non devi uscire, uno ti dice che devi andare a lavorare, quindi questo crea parecchio contrasto, e anche lì c'è bisogno, come dire, di dare delle spiegazioni. Anche se su questo punto onestamente facciamo fatica, no? Diamo un po' i riferimenti, i numeri, gli orari, i giorni, insomma, in cui è attivo il servizio. Sì, il servizio è attivo tutti i giorni, quindi da lunedì a lunedì, dalle 10:30 alle 19:30. Potete trovare i numeri di Francesco e di Diego sulle nostre pagine, mentre il numero del laboratorio di salute popolare è 351 12 26 865.